educata. E almeno quando uno molla, scusa, quando uno molla lo deve dire, faccio quel ritiro, faccio questi tre, porca miseria, non è che siamo stati mezz'ora parlando. No, insomma, si sono spostati un attimino. Ci siete ancora Luca e Marco e Antonio? Sì, vabbè, sono stata buttata la mondezza, sono qua. Ah, va bene, dai, perché io sto andando via adesso, dai, vi saluto, no, perché stava dicendo, come si chiama, Giovanni, che è bene uno quando va via, normalmente sempre a dire, ma in linea di massima lo facciamo sempre, Giovanni, Luca e tutti, diciamo, quelli che ci siamo qua, in linea di massima si fa tante volte, a meno che non ti capita l'emergenza subito, che magari c'è la telefonata e non puoi dire un attimo il telefono, è capitato anche a me, però siamo abbastanza ordinati da quel punto di vista, dai, saluto a tutti, saluto a Giovanni, saluto a Luca, Marco se c'è ancora, Antonio e poi gli eventuali amici in ascolto. Cuoretti da parte mia, Giovanni ci sentiamo domani, avanti per i saluti che aspetto un attimino per il finalino, avanti Giovanni. Vabbè, ci vediamo domani mattina, dai. Quindi praticamente chi ci è rimasto, Luca o Marco? Sono qua, stavo facendo le foto per Luca della plastificatrice e anche la scatola, dai, così si fa un'idea. Naturalmente non la trova sempre, di solito le fanno ogni 3-4 mesi queste offerte, io l'ho presa da prima dell'epidemia, diciamo, ecco, detta così. Ciao Robè, buona serata, buon tutto. Ok, allora, sono Bracco, o Giovanni, come vuoi, Giovanni, sono parecchio. Ma mi sembra strano che l'hai pagata così poco, quella roba lì, perché mi sembrava una vita che era questa era superiore a come stai dicendo tu. Diciamo che a questo prezzo quella marca che tratta Lidl si chiama United Office, no, è roba economica, sempre roba bene o male, ormai tutto fatto in Cina, però mi chiedo, costa poco ma quanto durerà? Chi lo sa, potrebbe durare un mese come anche un secolo, non si può dire, dai. Questa era economica perché è formato A4, no, tipo foglio di protocollo, invece quella che costa di più ma sempre relativamente poco è quella che è formato A5, no, doppio protocollo, può fare A5, A4, A3, scusa perdonami, ho sbagliato, volevo dire il formato grande, il doppio protocollo si chiama A3, tipo calendarietti, no? Però quella lì ha anche la taglierina incorporata, no? Per tagliare i fogli, insomma è una cosa un poco più complicata, io anche per motivi di spazio ho preferito questa che è abbastanza piccola e è molto pratica, leggera, è un giocattolino, poi quanto dura dura. Un attimo, faccio un po' di bianco, forse ha bussato qualcuno. Marco, i fogli dove li vendo? Allora, i fogli usa fogli per plastificatrice standard da 80 grammi possibilmente. Le trovi in cartoleria, li trovi da Auchan, non lo so, cartoleria. Fogli per plastificatrice a caldo da 80 grammi. Però se guardi la foto della scatola, se tu guardi la foto della scatola vedi a destra una regolazione 80 mic e 125 mic, servono micron, quindi puoi usare i fogli da 80 che sono più sottili o fogli un po' più di plastica un po' più grossa. Comunque in dotazione ti danno un pacco di fogli, mi pare che siano 30 pellicole e ce ne sono, 10 formato A4, 10 formato A5 tipo quaderno e poi 10 plastificatrici per tesserini, roba del genere, capito? Quindi da Lidl li trovi solo saltuariamente quando fanno l'offerta i pacchi di fogli oppure in cartoleria. Ma c'è uguale alla tua, sarebbe costa 26 più 16, allora 26 e 20 più 16 e 95 di spese. Ma uguale, non è che tu hai visto quella formato A3 che ha la taglierina incorporata anche, no? Ma qua c'è scritto United Ufficio, plastificatrice set, ULG 350B, Laminier, sì. Unità inclusa 30, poi c'è questa qua che c'ha sempre United, c'ha più 100 push, A4 più 30, mister invio gratis, 43,70€. Allora, quella da 26 è fuscia, guarda, dovrebbe avere quei bollini blu della scatola, c'è scritto formato massimo A4, se è la stessa, quello è un furto, cioè l'avranno comprata, ne avranno comprato un pacco, un bel da Lidl e ce ne vendono su eBay al doppio del prezzo, no, a quel prezzo non conviene, mi dispiace ma non conviene, proprio è un latrocinio, questa non vale più di 15 euro, ti danno pure i fogli, che usavo di più. A parte i grandi li ho quasi, penso di averli quasi finiti, ne avrò uno, due forse. Sì. Ho capito, vabbè, se capita, ma come lo fai sapere, poi me la compro. Guarda, ti ho messo la mano sulla plastificatrice per il palmo aperto per farti rendere conto delle dimensioni. Sì, sembra una piccola stampantina. Capo. L'ho vista, sembra piccola. Bene. Allora, vediamo se c'è ancora l'amico Giovanni, giusto? Sì. Poi ci sono le istruzioni, lui è semplice, elementare da usare. Sì, ho voluto questa perché a me della taglierina, di quella grande, non, calendari non ne devo fare, plastificati, eccetera. Dai. Va bene. Che dire? Mamma mia, che ore sono? Comincio a perdere colpi, Sono le 9.25. La taglierina come roba? Va, Marco. Bisognerebbe vederla, Lu. Il modello grande appunto aveva la taglierina incorporata, c'è una specie di mannaia di lato, no? Che tu lo abbassi come una leva e rifili i bordi di roba che vuoi rimpicciolire, tipo fogli, però non comincia a essere ingombrante quella, mi dispiace. È molto utile anche quella lì che stai dicendo tu, sai perché è utile? Ma a me mi servirebbe, io diciamo almeno se continuo magari, io faccio il pittore, già lo sa Roberto, e quindi se mi dici che quella che stai dicendo tu c'è un formato A3, dovremmo avere formato A3 e A4, mi hai detto, quella che costa di più, no? E a me mi servirebbe dei manifesti, perché potrei mettere i manifesti plastificati e quindi anche se piove diciamo non le farebbe nulla. Quindi se mi capita io prendo proprio quella che stai dicendo tu, hai detto A3, sarebbe il doppio o mi sto sbagliando di A4? Sì, A4 sarebbe come un foglio protocollo, tipo quadernone, e A3 è come due fogli attaccati di protocollo, sì. È bella, però io ero con pochi soldi, mi sono dovuto accontentare, dai. Sai anche perché, Giovanni, io quando devo tagliare carta, oppure carta fotografica per stampare foto, io uso la riga, proprio il righello, e il taglierino, e mi metto della carta sotto, no? per non tagliare giustamente il tavolo, e me la taglio con la riga. E vabbè, comunque quella là che mi capita io prendo quella grossa, se mi dici che a 3, cioè il doppio, ma non poco fa ti ho chiesto, ma oltre a 3 quella grossa fa anche a 4? Sì, a 3 è il più, cioè i numeri sono invece, a 3 doppio protocollo fa poi a 4, a 5 che sarebbe formato quaderno, e credo che ovviamente faccia anche formato tessera, sai, tesserini di associazioni, roba del genere. Naturalmente da Lidl già con l'acquisto della plastificatrice ti danno in omaggio una quantità di fogli ridotta, dai. Per esempio nella mia c'erano 10 fogli A4, 10 fogli A5 e 10 formato tesserino. Ho capito, ascolta, quanto costava quella grossa? Allora, che io ricordi 20 e qual poteva essere 25-26 euro. Però ti permette di fare tanti lavori carini, Per esempio, se io stampassi i calendarietti, li potrei anche plastificare, invece con questa non lo posso fare, ma d'altronde non è un'attività che io faccio. Però potenzialmente è più utile quella formato A3, capo. Naturale, a me mi servirebbe quella, già lo credo, è giusto che mi dici così, capita. Io faccio tante cose, diciamo, di manifesti e anche calendari ho fatto, diciamo, se vogliamo, no? Per stimolare i clienti, almeno prima, adesso mi sto passando la voglia pure per risultare di una certa età. Però se mi capita, mi dispiace, prendo la 3. Ok, io rilancio il micro, mi sembra che c'è insieme a Marco e Luca, se non mi sbaglio, e Tonio, siete voi, anzi, rilancio il micro a te e lo passi a loro. Tonio non c'è comunque, vabbè, ce ne sono, se vado a fare la puntura a mamma, la arrivo subito. Ehi, Alu, non mi parla di punture, che con questa siringhetta qua, questa pennina, una volta al giorno almeno me la devo fare, a vita, mia paranoia. Paranoia addirittura. Perché ha avuto un tumore all'ipofisi, no, benigno naturalmente, però ha scompensato tutto, ipofisi, tiroide, surrenali e anche altro, e quindi devo prendere la terapia ormonale sostitutiva. E una si chiama ormone della crescita, che non serve a crescere per gli adulti, ma serve, fa bene alle ossa, fa bene ai muscoli, cioè fa bene a tutto l'organismo. Se viene a mancare cominciano a soffrirne i muscoli, le ossa e chissà cos'altro poi. Tutto concatenato, come parte una ghiandola partono tutte le altre. È una cosa allucinante, guarda. È tutta una reazione bilanciata, basta che manchi da una parte e crolla tutto. E ti fai le iniezioni tu addirittura. Ma sono quelle pennine tipo per il diabete, no? C'ha degli aghi microscopici, sotto pelle arrivano. No, perché ho le iniezioni intramuscolo, quelle con l'ago lungo, non le posso vedere. Ma lì avviti la pennina, c'è già la fialetta precaricata, avviti l'aghetto, giri una rotellina per dosare, che poi è già predosato, e lo puoi fare o alla coscia o alla pancia, nella zona dove c'è il grasso, no? Premi il tasto un istante, un soffio è proprio, non senti nulla. E quindi diciamo, sei costretto a farla sta roba, oppure, non so, io sono lì che fa le medicine, mi viene il freddo solo a pensarci, diciamo. Evito anche le medicine, pastiglie e roba del genere, perché evito anche per il motivo, perché lo stomaco mio non funziona bene, quindi capirà le pastiglie. Ma forse dovresti fare quelle iniezioni che stai facendo tu, mamma mia, allora sarebbe veramente un problema per me. Diciamo che a me scoccia, perché io sono, comunque la devo fare, sì, perché ripeto, venendo a mancare quell'ormone ne soffrono le ossa e i muscoli, io sono alla soglia dei 50 anni e quindi devo comunque andarci cauto. E pensa che i diabetici con lo stesso tipo di iniettori se la devono fare ogni volta che mangiano, tipo a colazione ti devi fare la puntura, sempre alla pancia, no? O alla coscia, così, a pranzo se la devono fare, a cena ce la devono fare, se mangi qualcosa fuori pasto presumo che si debba fare lo stesso, però loro usano l'insulina, vabbè, nel mio caso è un ormone che sostituisce l'ormone che è venuto a mancare. Un attimo, forse è stato qualcuno, avanti prego. Ho piatto? Sì, viene avanti, così guarda lo smitter bene. Allora, il segnale 7,5, però la radio potrebbe essere appena più forte, io darei un 3 come volume di radio, K. Attenzione, se tu arrivi a fondo scala al momento non ti copio. Come mai tu lo stai copiando così forte? Magari abbiamo un'antenna diversa, io ho l'antenna sul tetto e il palazzo è sono 3 piani più il piano rialzato più il tetto, poi perché poi è un terrazzo, no, senza te è un terrazzo, quindi ho l'antenna sul tetto. E tu che antenna hai, Giuseppe? Mi pare di aver capito una cosa un po'... Avevi una Mantova, ma di molti anni fa, magari ne risente quello. Stai dicendo a me, Giovanni? Giovanni, scusa, mi confondo con Giuseppe che c'è al baracchino lo stesso. Diciamo che come professione io sono buono, ma dove stiamo trovando l'amico? L'amico che ha chiamato, che ha chiesto il controllo, non gliel'ho chiesto. Vediamo se ancora c'è l'ascolto l'amico, non ho sentito neanche il nominativo peraltro. Niente, è già andato via, dai. Già andato via. Comunque noi siamo vicini, Roberto è vicino, noi ci sentiamo molto ma molto bene. Comunque mi confermi, tu avevi una Mantova però di tanti anni fa, può darsi che ne risenta un po', no, con l'età. No, ma funziona benissimo, problemi non ne hanno. Diciamo mi copiano bene anche ad Alghero, ma questo è proprio sul fondo scala, non ho capito appunto come mai tu lo copiavi con un Santiago, ma dipende che antenna c'hai poi, con un Santiago 7 mi sembra strano, e per me al momento non riuscivo a copiare, lo sentivo sul fondo così il break, ma proprio una cosa come che veniva addirittura da fuori, non da Sassari. E poi dipende molto dalla posizione, magari certe volte ti sposti di 100 metri o di un chilometro e cambia tutto. Qua l'antenna è recente, l'antenna mi pare, ero convinto di averla messa 3 anni fa l'antenna nuova, invece c'è dal 2014, sono già 6 anni, a maggio ne fa 6 anni, quindi recente. Il cavo era, l'avevo messo nuovo, quello grosso, per averne una perdita, baracchino sempre di recente produzione, tutto nuovo è qua, in poche parole, dai. Dirai allora, antenna c'è una Mantova o quale? Ah no, antenna, c'è un'antenna più leggera della Mantova, pesa la metà della Mantova e ha 3 radiali lunghi 1,30 m, si chiama Midland Energy 5 ottavi, è una 5 ottavi diciamo leggera, rende secondo me appena appena meno della Mantova. Di quale punto sembra? Non mi ricordo di quale punto hai detto che sei tu? Ho sentito qualcuno sotto che ha chiamato, adesso lo mando avanti, e mi ha chiesto posizione più o meno, le posizione via Nizza, angolo via Le Trento. Ho capito, siamo vicini, dai. Fai entrare quello che ha bussato. Anto, bisognerebbe provarla sullo stesso palo e con lo stesso cavo, cioè piazzarne una, sempre stesso cavo, stesso palo e non dall'altra parte del terreno, provarne una, poi scenderla, piazzare l'altra, scendere giù e fare le prove, solo così si capiscono le reali differenze. Questa per esempio c'ha mezzo metro di altezza in meno, Anto. Cioè mentre la Mantova è 7 metri effettivi, questa è 6 metri 50 perché c'ha appena appena più di bobina e mezzo metro in meno di stilo, capito? Cioè elettricamente sembra una 5 ottavi, però è appena appena raccorciata. Cappa, vai Antonio. Non lo so, la Mantova diciamo c'è un bello spessore anche, bella massiccia, poi chi lo sa, tutto è possibile, però la Mantova costa anche di più, cioè, ci sarà un minimo di differenza, magari un dB, non Santiago, un dB, un decibel, chi lo sa, oppure ci sono differenze, ti ho detto, bisognerebbe provarla, stesso palo, stesso cavo, stesso baracchino, stessi watt, proprio togliene una a mettere l'altra, è solo che come si fa a provare così, bisognerebbe avere spazio, gente che ti aiuta. Avanti Giovanni. Ho capito, ascolta, ma Antonio dove sta modulando, perché non è che lo copia, sì, diciamo come radio è buono, però Santiago è basso, Antonio dove sei? Tornato, latte dolce. Ma qua Antonio sta arrivando abbastanza bene, 9.15, tu conta Giuseppe, tu sei 9.20, Antonio 9.15, qua arriva abbastanza bene. Anzi, ti volevo chiedere Antonio, ma stai pompando appena appena? Perché è più forte di solito sei sul 9.5, adesso mi sembra abbastanza forte il segnale, ok. Sì, comunque Antonio arriva bene qua, per quello dicevo, ti arriva Antonio, te arriva un po' più bassino, l'altro amico che aveva chiesto controllo molto più basso, e magari qualcosa da migliorare c'è, magari c'è l'antenna ossidata o qualche PL, già lo sai, no? Dopo, purtroppo il caldo, il freddo, la pioggia fanno il loro lavoro. Infatti, infatti questa l'antenna che sul mio tetto che ha 30 anni, cioè 30, dico 30 in termini di termini, e tutto il resto naturalmente c'è la stessa età, sia i PL, i commutatori e tutto il resto naturalmente. Insomma, io sono, in questo momento sto uscendo con un baracchino da 5 watt per intenderci, adesso non so voi con quale apparecchiatura state uscendo. Ma l'ho chiesto ad Antonio, come ricevi a me, Antonio, come, dammi i controlli, come mi ricevi? Tu mi arrivi, diciamo, circa, vediamo un po', uno, vieni avanti a vedere. Santiago, diciamo, di 4, va, radio 5. La Mantova, ho detto, ma c'ha 30 anni, come ti ho detto prima, no? No, vabbè, questo cavolo di Smitter detto qua non è che si capisce molto bene, diciamo che ha tre scale diverse, però vieni di nuovo avanti a vedere. Che la 18 mi arriva a 4, oh, non lo so perché, Santiago è quello, inutile che sia a dirti palle. Ma chi lo sa, magari lo Smitter, l'indicatore di segnale magari non è preciso, oppure potrebbe essere magari l'RF gain, cioè il guadagno di ricezione, anche a me certe volte spolverando il baracchino mi si abbassa la manopola, mi trovo i segnali più bassi, poi me ne accorgo per puro caso che l'ho abbassato. Comunque Giuseppe, è vero che Giovanni, l'antenna comunque quando c'è 30 anni su anche il cavo, io dico che se tu dovessi cambiare antenna e cavo i segnali decollerebbero. Ma sono tentato a fare come facevo un mio amico con le antenne vecchie, a darti una scarica di 220, cosa dici? E magari una scaldatina bene li fa, chi lo sa. Tanto per curiosità, qua col filtro praticamente c'ho 3 watt, nudi e crudi, il segnale com'è rispetto a Giovanni? Tanto vedi un po', 1, 2, 3, 4, 5. Caspita, già c'è differenza, Giuseppe. Vedi, io 9 più 15 dB e tu Santiago 8. C'è una notevole differenza. Tu conta che sei molto più in alto di me, perché via Luna e Sole dove sono io tu puoi scendere, tu lì sei molto più privilegiato, sicuramente c'è qualcosa da migliorare, dai. Comunque, bene o male in città ci sentiamo, mi poi, non è che. Certo, se vuoi arrivare tipo per 8 ore, se ti intorni al Ghero, allora bisognerebbe. Poi volendo c'è l'aiutino, mi Anto, guarda lo smittere. Che smitter c'hai prima di tutto, Antonio? Ok, guarda. 1, 2, 3, 4, 5. È salito? Vabbè che poi siamo talmente. Quando siamo in città non cambia, dai. Ok, dicevo Giuseppe, vi ho chiesto che baracchino era. Allora, questo è un Superstar 3009 di produzione recente, omologato, 4 watt, poi io c'ho un filtro aggiuntivo per scrupolo, e quindi mi ruba un watt, quindi sono 3 watt. Conta un'altra cosa Giuseppe, io ho 50 metri di cavo, perché io sono praticamente al piano rialzato, e tra giri vari arrivare all'antenna ci sono 50 metri di cavo, quindi se qui sono 3 watt su ne arriveranno 2, seppure ne arrivano. Ok, e tutto qui, microfono originale, normale, tutto nella norma, dai, vai Giovanni, che ti mando avanti, poi scappo in bagno, devo andare in bagno. Io faccio più il tipo al mondo, e ho capito che praticamente c'è tutto nuovo. Comunque, anche, naturalmente anche tu hai delle perdite, un capo così lungo, io non credo le perdite di roba. Ma io invece mi merito al cavo, diciamo, forse 10 metri di cavo circa, no, per arrivare sul tetto. Però ripeto, l'antenna è quella che è, penso, e non ho intenzione di cambiarne altro, perché già ho tolto le antenne perché mi rompevano le scatole, di può immaginare, se vado sul tetto di nuovo, questi magari avviene danno per cause naturali e poi danno la colpa a me, va bene. Sono in mezzo, diciamo, a della gente di un'ignoranza fuori del comune, dai. Ok, grazie micro, poi faccio correttie. Ok, dai, allora ci salutiamo adesso direttamente, poi vado in bagno, metto a posto qua la scatola del coso che ho fatto le foto là. Plastificatrice, bene, bene, bene. Ok, Giovanni, dai, sentiremo nei prossimi giorni, tanto io non sono molto costante nell'entrare perché io mi stanco a stare troppo in radio, entro più sul tardi certe volte, lo sai, tipo quest'ora, così un'oretta di chiacchierata è sufficiente, dai. Saluto anche Antonio Bombolo, dai, come sopra, sentiamo quando, ogni tanto quando entro, e auguro la buona serata a tutti, e buon proseguimento e a domani, o quando capita, dai, vai Giovanni. Non capa. Allora saluto anche l'amico Antonio Bombolo, hai detto, non mi sbaglio, e poi poco fa c'era Luca e Marco, eventualmente ci sono, saluto anche loro e faccio correttivo. Ehi Giovanni, io sono Marco Condor, però il nominativo a me non piace, Marco e basta, alla fine sto usando sempre il nome di battesimo, dai. Ok, dai, buona serata, rinnovati gli auguri, sì gli auguri, saluti, e fine serata anche questi scherzi qua. Dai, ci sentiamo nel prossimo, ok? Tanto una domanda per te, ma c'è sempre quel portantista vicino a te, che mi pare che ti ho sentito anche stasera inveire. Ma sai perché te lo dico? Perché qua la portante è zero, cioè quando tu gli dici roba, qui non arriva nessuno, o è un tipo o è qualcuno col portatile. E comunque se lo scopri fagli una spedizione punitiva, così la finisce. Acca delle corna. E infatti, ma poi anche, sai, le portanti esistevano 20-30 anni fa quando era pieno di gente, ma adesso sono quasi sparite, quasi dico, perché da quando un po' con questa storia dell'epidemia la gente è rientrata un po' al baracchino, caso strano, sono aumentate anche le portantine. Quando eravamo quattro gatti fino a qualche mese fa, i portanti non esistevano proprio, adesso che hanno disotterrato un po' qualcuno magari da, chi lo sa, portatili, veicolari, qualcosa, qualche portantina c'è, dai. Ma finché rimangono basse di segnare non danno fastidio. Bene, di nuovo, dai, scappo in bagno, saluto tutti, ciao, buona serata, ciao, quelle ti.